la storia va, dovremmo andare un po' indietro col tempo, ma sono da quelle che una volta venivano chiamati i CPT, quello ad esempio di Via Matteo a Bologna, che finalmente si è riusciti a chiudere. CPR sono ancora una struttura ancora peggiore, quello di Via Corelli, ma anche in altre realtà, dopo anni di lotte è stato chiuso, c'è un'inchiesta della magistratura per le condizioni in cui venivano sottoposti questi poveretti, che l'unica colpa, non avendo commesso nessun reato, quindi uno commette un reato va in carcere, no, questi hanno solamente il problema di non avere il permesso di soggiorno. È una struttura vergognosa, a Campo Galeria, a Roma, un primi del mese scorso, un ragazzo di 22 anni si è suicidato, sono posti nei quali non vengono date le minime cure mediche, un vitto decente, insomma è una situazione veramente allucinante. E chi finisce in un CPR ci può rimanere addirittura 18 mesi, quindi pensate già, insomma questa è veramente una cosa che è una vergogna totale. Il perché della magistrazione Ferrara? Ma perché da un paio di mesi fa, su una notizia che era apparsa sui quotidiani, il governo aveva stabilito con una legge di aprire dei CPR in ogni regione e per la regione Emilia Romagna era stata individuata la città di Ferrara, perché secondo questi simpaticoni offriva delle caratteristiche. La zona individuata era quella dell'aeroporto, quindi più comoda per loro eventualmente per trasportare i migranti per poi farli arrivare con voli più grossi, con gli aerei più grossi nei loro paesi di origine, cosa che non avviene praticamente mai. Appena arrivata la notizia si è mossa quella che viene definita la società civile, in particolare la CGIL, l'ARCI, l'AMPI e tutta una rete di associazioni che al momento sono arrivate a 50, quindi 50 associazioni della società civile ferrarese, la maggioranza di queste sono del mondo del cattolico, hanno aderito alle parrocchie, è aderito, e questa è stata una svolta importante, il nuovo vescovo di Ferrara. Ci sono stati già diversi incontri, un'assemblea partecipata che è stata, io credo, anche per Ferrara un miracolo, perché più di 300 persone al Cinema Apollo è stato davvero un miracolo. Si è cominciato a ragionare sul fatto appunto che nessuno vuole queste strutture, né a Ferrara né sul territorio nazionale ovviamente. Da qui è partita questa mobilitazione. La cosa si è allargata per due motivi. Uno appunto perché non si vogliono queste strutture, che sono veramente dei lager per questi poveri migranti. L'altra è perché comunque il pericolo oggi, al di là di quella che viene in maniera strumentale, oggi questo voltafaccia fatto da Lega e da Fratelli d'Italia, che hanno sconfessato addirittura il loro governo, che però in campagna elettorale sono stati affissi in giro per la città di Ferrara dei manifesti, grazie alla Lega, grazie a Fratelli d'Italia, non ci sarà il CPR a Ferrara. È ovviamente una mossa elettorale. A giugno, come sapete, si vota, quindi poi vedremo. Il pericolo che se non sarà Ferrara sarà un'altra città della regione. Per questo è stato lanciato questo appello, raccolto veramente da centinaia e centinaia di realtà in giro per la regione Emilia Romagna, e si è pensato di dar vita a questa manifestazione che appunto si terrà il 2, quindi tra pochissimi giorni. Una manifestazione che vedrà impegnate tutte le realtà che lavorano nel volontariato e tutte le realtà anche più strutturate. Vi dicevo l'ARCI, vi dicevo la CGIL, che si è assunto un impegno appunto di essere a fianco di questa lotta, e quindi insomma ci sarà sabato questa manifestazione. Dalla regione è previsto l'arrivo di tantissime persone, si stanno organizzando pullman da Bologna, c'è un appuntamento alla stazione di Bologna la mattina per chi volesse venire con i treni. L'appuntamento è per le 15 in quello che viene abitualmente chiamato Piazzale Poledrelli, che è all'incrocio tra Corso Cavour e quindi insomma una zona molto vicino alla stazione.